spazio dedicato alla lettura dei giornali, naturalmente la notizia che domina le prime pagine è la questione dell'Europa, l'Europa che ci dice, per leggerla in maniera più fredda, il titolo del Sole 24 Ore è l'Europa, squilibri eccessivi su debito e competitività, il governo dice ora la crescita. Per leggerla invece in maniera un po' più dura, un po' meno morbida, c'è il titolo per esempio del quotidiano nazionale, in particolare del giorno, l'Europa ci fa un'altra predica, il solito Ren, Italia maglia nera, ciò che avete fatto non basta. E ancora più brutale il titolo di Libero, l'Europa gioca sporco e dichiara guerra all'Italia, carte truccate per commissariarci. Questo tra l'altro è il tema che andremo ad affrontare nella seconda parte della trasmissione, dopo il giornale radio delle 8, insomma ne parleremo con chi è euroscettico e insomma si ritiene che sia tale, avremo una deputata del Movimento 5 Stelle che si sta occupando di queste vicende, avremo anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei Gozzi. E però nel rispetto della tradizione di Alessandro Milan, io vorrei cominciare invece da una vicenda che è quella dei rimborsi, ancora dei rimborsi delle regioni. Mani sul volante. Dunque, che cosa succede? Succede che si chiudono le indagini nei confronti di 64 consiglieri lombardi, tra cui 5 assessori accusati di peculato, rimborsi illegali da quasi 3 milioni di euro. È naturalmente la consiliatura precedente, quella sulla quale forse abbiamo raccontato di tutto, ed è la consiliatura che teneva dentro Nicole Minetti e Renzo Boschi. Il racconto è di Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera. Dal gratta e vince ai giornali, dalla consulenza al biglietto del tram, dalle fettine al caffè, lo definisce Guastella un campionario inquietante. E vogliamo andarlo a leggere nel dettaglio, vedere un attimo che cosa c'è dentro tutto questo. Allora, dalle casse della regione dal 2008 al 2011 sono usciti illegalmente quasi 3 milioni di euro, 61,50 spesi in macelleria da Alessandro Marelli della Lega, 162 da Giovanni Bordoni del PDL per prodotti della Valtellina. La lista del Trota, del figlio di Umberto Bossi, è meravigliosa, 15.757 euro. Ci sono una spremuta d'arance brioche farcite per 3,30 euro, caramelle e salatini per 18,05 euro, una Red Bull e le sigarette per 17,85 euro, una TV da 32 pollici, 428 euro, iPad, iPhone e accessori vari, 1515 euro. C'è un rilevatore di auto Velox pagato con i soldi della regione da Renzo Bossi e di tutto per 188 euro. E ci sono addirittura due spazzolini col nome. Io non, insomma, personalmente non sapevo nemmeno che esistessero. Un frigorifero e invitare 11 persone al ristorante del Bolognese. E ancora, andiamo a vedere un po', Carlo Porcari, capogruppo del PD, 24 kg di salami e 14 di cotechini, 8,62 euro per le aspirine. Chiara Cremonesi di Sel, 1000 euro per iscrivere 8 persone ad una scuola di cultura politica. E la meravigliosa Elisabetta Fatuzzo del Partito dei Pensionati, suppongo parente del Fatuzzo che in realtà è capo del partito, 200 euro per un pranzo con tagliata di Aragosta. Un elenco che Guastella definisce sostanzialmente infinito, tra cui c'è Giovanni Rossoni, ex assessore PDL all'istruzione, 15.589 euro per regali di Natale istituzionali, Carlo Spreafico del PD che mette in lista anche 9,40 euro per un ombrello mini automatico. e altre cose note tra cui il leghista Stefano Galli, che fece avere una consulenza da 196.000 euro al genero, Corrado Paroli o Paroli, chissà, anche lui indagato che non aveva i requisiti. Galli mise in nota spese 6.183 euro per il banchetto del matrimonio tra Paroli e la figlia. Un'ulteriore testimonianza, insomma, di un buco nero che speriamo che progressivamente venga chiuso. Non ci riferiamo naturalmente alla, nella fattispecie, alla regione Lombardia, ma ci riferiamo in generale ai buchi dal punto di vista dei rimborsi per quanto riguarda le spese della, delle regioni, che naturalmente buchi che sono molto più ampi. Come si diceva, tema generale, il tema al centro di tutto quanto sono queste dichiarazioni europee, questo avviso dell'Europa che alza il livello di allerta e di monitoraggio sull'Italia, la retrocede tra i paesi con squilibri macroeconomici eccessivi, come riporta il Sole 24 Ore, poche riforme, scarsa competitività, e avverte la manovra 2014 è insufficiente a ridurre il debito. La replica del Ministro dell'Economia, ora crescita e lavoro, riforme in linea con l'Europa. Ma certamente se dobbiamo dire qual è l'intervista di questa giornata, è sicuramente l'intervista del Sole 24 Ore a Piercarlo Padoan, ministro dell'economia, neo ministro dell'economia, che finalmente ci consente di scendere un po' nel dettaglio su quanto questo esecutivo intende fare dal punto di vista del costo del lavoro. Come sapete, Renzi aveva parlato di una doppia cifra, cioè di un taglio di circa almeno 10 miliardi di euro. Padoan scende nel dettaglio, oggi qualche problema con gli accenti sui cognomi, scende nel dettaglio su quelle che potrebbero essere le coperture. L'intervista è firmata dal vice direttore del Sole 24 Ore, Fabrizio Forché, e inizia in realtà parlando di quello di qualcosa della quale si è discusso, insomma, soprattutto a livello politico, ossia il dualismo tra lui e Renzi, nel senso che si è detto che l'attuale ministro dell'economia sarebbe sostanzialmente stato imposto al presidente del Consiglio come figura tecnica. Padoan dice: ogni volta che vedo il presidente del Consiglio ci chiediamo chi mette in giro queste voci sul dualismo, una contrapposizione farebbe molto male al governo, dice lui. L'intervista dentro è una pagina intera, le cose interessanti, direi le cose fondamentali, poi ci sono molte cose interessanti naturalmente, perché la prima intervista al ministro dell'economia, è stato capo economista dell'Ocse, era stato appena nominato presidente dell'Istat, sono la quantificazione da dove arriveranno questi 10 miliardi, visto che siamo così messi e che l'Europa nuovamente ci bacchetta e ci fa ipotizzare un nuovo aperte virgolette commissariamento. Dice Padoan che arriveranno subito 5 miliardi dalla spending review e quindi dalla revisione della spesa. Si avvia il processo che si riteneva dovesse portare nel 2014 3 miliardi di euro, ebbene il ministro lo ipotizza a 5 miliardi di euro. Naturalmente non sono tutti i soldi dei quali ha parlato Renzi. Dice Padoan: più rientro di capitali, ci sarà la normativa sul rientro dei capitali che dovrebbe far rientrare del denaro, e poi misure transitorie. Tutto questo in attesa dei tagli di spesa a regime. Quindi la sostanza qual è? L'idea è di dare una scossa nel 2014 con un taglio del cuneo fiscale da 10 miliardi di euro, utilizzando anche risorse transitorie che quindi uno non può sostanzialmente mettere a bilancio anche per gli anni successivi, e poi mantenere questo stesso livello di taglio con delle misure definitive ancora riguardanti questo benedetto taglio della spesa, sul quale abbiamo praticamente 20 anni di rapporti realizzati dai più vari personaggi. Adesso è la volta di Carlo Cottarelli e speriamo che veramente sia la volta buona. Successivamente questi tagli a regime dovrebbero appunto permettere di rendere stabile il taglio di 10 miliardi del cuneo fiscale. Nota Fabrizio Forché giustamente nell'intervista con Padoan, dice: ma l'Unione Europea è sempre stata molto restia a permettere un uso di quei fondi fuori dagli obiettivi riconosciuti, cioè i fondi per esempio dal rientro dei capitali o i soldi dai fondi europei. L'obiettivo è il rafforzamento strutturale delle economie, quindi perché non si potrebbero utilizzare quelle risorse su due capitoli prioritari, dice Padoan: il mercato del lavoro e la capacità di competere delle imprese, è interesse dell'Europa intera e non solo dell'Italia. Sarà da ragionare davvero che cosa avrà da dire Bruxelles su questo. Una pausa e ci ritroviamo tra un attimo. 24 mattino. Ed eccoci di nuovo per fare un punto e dare una lettura dei quotidiani oggi in edicola. Bene, allora, abbiamo raccontato di quello che ci dice l'Europa, di quello che risponde nell'intervista al Sole 24 Ore il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Abbiamo parlato dei rimborsi dei consiglieri regionali, è arrivato un dettaglio con l'avviso di chiusura delle indagini. Vi voglio portare almeno per un attimo a non dimenticare, perché sta un po' scendendo come notizia, però dato che è un elemento strategico e importante, se vogliamo anche per il futuro dell'Europa, visto che di quello che stiamo parlando e di quello di cui parleremo alle 8:15, sulle vicende dell'Ucraina. Le notizie di ieri raccontano di quello che il Messaggero definisce un dialogo in salita tra Stati Uniti e Russia. Il racconto di Repubblica parte da questo titolo: Ucraina, Kerry tratta con la Russia ma la NATO gela Putin. Perché? Perché annuncia aiuti militari a Kiev e una revisione dei rapporti con Mosca. Molti giornali raccontano la vicenda dell'inviato delle Nazioni Unite che è andato in Crimea, Jan Eliasson, è stato minacciato e cacciato da uomini armati, costretto di fatto a fuggire e riprendere un aereo. La situazione resta molto tesa, fin qui le notizie che avete sentito naturalmente anche nel giornale radio. A riportare una cosa in realtà che troviamo su pochi giornali, che è uscita ieri in rete, è stata diffusa e naturalmente ha, come dire, la credibilità che ha e l'importanza che ha, però noi ve la diamo perché è un elemento di riflessione. La riporta il Manifesto che in realtà apre sulla creazione sostanzialmente della lista Tsipras, per la quale scendono in campo attivisti, intellettuali e giornalisti, metà donne e metà uomini. La Spinelli che dice: saremo gli insubordinati di Bruxelles. La notizia sull'Ucraina è questa, titolo: a sparare in piazza i miliziani di Maidan, ovvero quelli che sostanzialmente protestavano. Di che cosa si tratta? Si tratta di un cosiddetto leak, ossia in realtà in questo caso un'intercettazione vera e propria telefonica tra l'alta rappresentante europea Ashton e il ministro degli esteri estone Usmar Paet, il quale racconta esattamente alla Ashton questa cosa. Dice: i cecchini responsabili delle morti di piazza non erano uomini di Yanukovych, bensì membri dei rivoltosi. Questo secondo me è un tema interessante che sicuramente farà discutere nel corso della giornata, vedremo a che punto porterà. C'è questa telefonata che sarebbe stata diffusa sostanzialmente dai servizi segreti ucraini. A dire la verità, che nella piazza, in quella piazza, si stessero mescolando molte cose, lo sapevamo, però insomma è interessante che il Manifesto decida di titolare esattamente su questo, di scegliere questo come titolo principale. Altri elementi di questa giornata. Naturalmente in primo piano resta la vicenda della quale abbiamo già parlato prima, insomma, nell'Italia si desta alle 6:30. Ossia la questione dei sottosegretari indagati, altro tema che fa discutere per ritornare all'Italia. Ed è il fatto che Maria Elena Boschi, come presentandosi dinanzi al Parlamento, ministra per le riforme e per i rapporti con il Parlamento, difende la scelta del governo di tenere i quattro sottosegretari indagati, tra cui la Barracciu del Partito Democratico. Dice il titolo dell'Unità è Boschi, no a dimissioni per un'indagine. Si accende la polemica sui sottosegretari al centro di inchieste giudiziarie, Bindi attacca quelle nomine al governo, dice sono stato un atto superficiale. Tra l'altro c'era su questo una richiesta del Movimento 5 Stelle e vedremo come procederà. Come prevedibile, proprio per l'impostazione che ha questo giornale, il Fatto Quotidiano è quello che picchia più duro. Renzi cambia verso, gli indagati non si toccano. La ministra Boschi, molto vicina al Premier, esordisce alla Camera rispondendo ai 5 Stelle sui 5 inquisiti al governo. Non chiederemo passi indietro a chi avvisi di garanzia, nemmeno ai tempi di Tangentopoli e del Caimano. Così, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, non è quello che dice la Boschi. Il commento in prima pagina di Peter Gomez, che dice, si intitola Giovani Gattopardi, a dimostrazione di come il potere non sia solo il più grande afrodisiaco, parola di Henry Kissinger, ma di come dia pure la testa, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ci mette meno di 4 minuti per demolire agli occhi dell'Europa e dei cittadini un altro pezzo di credibilità del governo Renzi. Quindi, come sentite e come prevedibile anche dal punto di vista della linea editoriale, è molto duro il Fatto Quotidiano su queste vicende. Domina un'altra vicenda che domina o comunque viene riportata con grande risalto sulle prime pagine dei quotidiani, è un'altra vicenda che fa molto discutere non tanto e non solo, o meglio, per quello che sarebbe avvenuto secondo l'antitrust, ma per la possibile eventuale estensione di questo fenomeno. La vicenda è la vicenda di due colossi svizzeri della farmaceutica. L'antitrust ha comminato loro per la precisione sono Novartis e Roche, ha comminato loro una multa da 183 milioni di euro. Qual è l'accusa? L'accusa è sostanzialmente di aver boicottato una medicina a basso costo. La cronaca di Roberto Turno ci dice che le due big pharma svizzere, Novartis e Roche, sul Sole 24 ore, Roberto Turno sul Sole 24 ore, sono state sanzionate dall'antitrust italiana una multa record rispettivamente di 92 e di 90,5 milioni di euro. Cosa avrebbero fatto? Avrebbero illecitamente ostacolato la diffusione di un farmaco molto economico, Avastin, nato contro il cancro, per la cura della degenerazione maculare senile e di altre gravi malattie agli occhi, a tutto vantaggio di un prodotto molto più costoso dal nome Lucentis, differenziando artificiosamente i due prodotti. Secondo il garante del mercato, avrebbe procurato maggiori spese al servizio sanitario pubblico di 45 milioni solamente nel 2012, con possibili costi futuri in più per 600 milioni. Quindi è un'accusa molto pesante, dalla quale le aziende si difendono sostanzialmente e dicono che faranno ricorso al TAR. Respingiamo in maniera decisa le accuse di pratiche anticoncorrenziali. La replica di Novartis, che appunto annuncia un immediato ricorso al TAR. E questo per quanto riguarda Novartis, mentre invece Roche respinge tutte le accuse e nega il cartello, confermando anche loro di essere pronti a ricorrere. Storia interessante, ripeto, perché se poi confermata vedremo che cosa succederà, naturalmente, perché per il momento è solamente un'indagine. Sarà interessante vedere e cercare di capire un'eventuale estensione della vicenda. Sempre sulla giornata di oggi c'è un'altra bella storia. Voglio andare su un paio di storie che arrivano dal sud. Allora, la prima è la ormai annosa vicenda di Pompei e dei crolli, ma soprattutto di come in realtà Pompei viene gestita. Adesso, se riesco a recuperare la stampa, e perdonate la confusione, perché c'è Mattia Feltri che ha fatto alla fine quello che dovrebbe fare chiunque per raccontare veramente com'è la situazione. Che cosa ha fatto? Ha preso ed è andato a fare il turista a Pompei. Qual è il racconto? Il racconto è di scene di ordinario degrado. Allora racconta Mattia Feltri, inizia con un virgolettato. «Scusi, non vengo qua da 35 anni», dice la signora. «Giovanni, la nostra guida, si gratta la testa. Provi in Via dell'Abbondanza, lì ci sono moltissime scritte», dice Giovanni. «Era qualcosa come Lucia ama qualcuno», insiste la signora. «La richiesta è piuttosto vaga, ma non è l'unica. Due ragazze domandano dell'anfiteatro. Di qua sono 2 chilometri. Un uomo del macellum, dopo l'arco a destra. E sì che Giovanni si è levato il badge dal collo, perché sennò ce li ho addosso come mosche. Parla dei turisti che non sapevano di venire a Pompei a fare la caccia al tesoro. L'impresa di occultare il più stupefacente gioiello mondiale d'archeologia parte da lontano e non riesce soltanto per la testa degli escursionisti. Gli stranieri arrivano spesso in gruppi organizzati, chi si muove da sé si è armato di navigatore satellitare e meno male perché non c'è un'indicazione. Questo il quadro da Pompei. Mauro Meazza, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Hai sentito, non c'è Alessandro Milan stamattina? Hai percepito vagamente. Ho sentito, devo dire, ieri era più evidente, essendoci Anna, anche la voce, come dire, il timbro della voce aiutava a capire che non c'è Alessandro. Mi dicono che è in vacanza. Sì. Auguriamo buone vacanze. Non c'è in questi giorni. Allora, guarda, ti dico subito: non parlarmi dell'intervista che avete fatto con Paduan, perché abbiamo già parlato ampiamente prima. Insomma, però è sicuramente l'intervista del giorno e la notizia del giorno. Nel frattempo, insomma, si parla anche di mercati, perché in tutto ciò noi non abbiamo raccontato che in realtà questo è un periodo tutto sommato buono per questo esecutivo, perché trova una tregua sui mercati, niente male. Molto buono, verrebbe da dire, anche se, per carità, quando si fanno queste affermazioni bisogna sempre fare gli scongiuri. Però oggi sul Sole 24 Ore, nelle pagine iniziali, raccontiamo anche come lo spread sia arrivato a 177 punti, quindi siamo a livelli, non dico pre-crisi, ma insomma 2010, siamo molto prima della grande dell'estate tormentata dello spread. E poi a oggi ci sono queste, c'è attesa per la decisione della Banca Centrale Europea, e quindi diciamo che il contesto internazionale, il contesto dei mercati dell'Eurozona sembrano favorevoli agli interventi. Quindi vediamo se, come dire, questa combinazione di notizie, il monito che ci è arrivato ieri, la tirata d'orecchi, devo dire, su temi, ohimè, noti da parte della Commissione, e però anche la ricetta che viene indicata da Paduan, che avete ricordato prima della nostra telefonata, ecco, vediamo come poi andranno a mixarsi, a combinarsi con le condizioni dei mercati, di cui appunto spieghiamo nelle pagine interne. Ti volevo dire qualcosa su Pompei ancora, perché dai, hai visto che nelle pagine di Imprese e Territori, nelle nostre pagine di Imprese e Territori, ci occupiamo anche noi di Pompei, perché lì c'è il rischio che, insomma, ieri il sovrintendente l'ha detto abbastanza chiaramente, non c'è tempo per spendere i fondi, cioè non solo, diciamo, c'è una gestione deficitaria, ma proprio non faremo in tempo a spendere i fondi. Tra l'altro anche noi qualche settimana fa avevamo denunciato. Ma perché questo, Mauro? Io è sempre una cosa che non riesco a capire mai. C'hai dei fondi, insomma, usali, no? Guarda, nel racconto di Francesco Prisco si leggono delle cose, devo dire, non so dire se agghiaccianti o che intristiscono, perché mancano i muratori, cioè ci sono dei carpentieri, dei muratori, sono andati in pensione e bisogna sostituirli, però adesso bisogna andare a cercarli, nominarli, formarli, mi immagino, e non si fa a tempo, cioè abbiamo dei tempi molto stretti per utilizzare questi fondi. La UE peraltro ci ha fatto sapere, perché c'è anche una faccia poi buona dell'Unione Europea, che ci potrebbero dare pure di più. Certo, bisognerebbe dirgli che poi li usiamo, ecco, sarebbe certo. Utile dire comunque, o perlomeno dimostrargli che li usiamo. Comunque, guarda, nelle pagine c'è una bella pagina che mette insieme ovviamente anche la città della scienza e anche un'analisi in cui cerchiamo di spiegare come mai, nonostante molti siano gli investitori che vorrebbero puntare su Pompei, perché Pompei è un sito archeologico noto in tutto il mondo, poi però vengono scoraggiati appunto dai meccanismi burocratici che gravano purtroppo su queste operazioni. Senti una cosa, e poi si parla anche di condominio, no? Sì, certo, perché oggi ci sono le pagine di Casa 24, tra l'altro un tema magari poco dibattuto e poco noto: si potrebbe farsi un wifi, quindi un collegamento senza filo, insomma, per legarsi a internet anche di condominio, quindi risparmiando. Spiegano tutto nelle pagine di Casa 24, Emiliano Sgambato, i nostri esperti. E ti voglio dire, ieri mi sembra che ci siano state un po' di polemiche perché il Premier, il Presidente del Consiglio, è andato in una scuola. Quindi c'è stato anche un momento musicale. Dai, trova un collegamento in stile Mentana con il Sole 24, vai. No, c'è il collegamento, guarda, perché in realtà Giorgio Santilli puntualmente ci ricorda che per l'edilizia scolastica è dal 2002 che abbiamo fatto piani per l'edilizia scolastica. Mi stai sparendo Mauro il telefono. Ci racconta Giorgio Santilli che ci sono stati ben 10 piani, ci sono 2 miliardi e 200 milioni di da spendere. Adesso bisognerebbe mettere in ordine i 10 piani, capire cosa abbiamo deciso negli anni. Un po' come la spending review, abbiamo una quantità di rapporti sulla revisione della spesa pazzesco e continuamente sostanzialmente diciamo che adesso sarebbe forse il momento di decidere. Mi pare che siamo arrivati al momento in cui devo lanciare, perché ormai sai che c'è questa variante che lancio io le informazioni sulla viabilità. Però devi aspettare un attimo, perché c'è Peter Bescapè dall'altra parte del vetro e mi sta dicendo che per un qualche motivo sono svaniti nel nulla i colleghi della viabilità. Che fai, la lanci tu quindi? Ma di solito sì, io saluto anzi i radioascoltatori e lo stesso Alessandro con il grido di traffico. Quindi vai, dimmi solo vai. Quando vado. Traffico! Ed eccoci di nuovo, dunque riprendiamo un po' anche la visita di ieri di Matteo Renzi nelle scuole, visto che ce lo accennava Mauro Meazza, insomma abbiamo parlato prima, ne abbiamo parlato scherzando un po' alle 6:30 su questa visita. Certo, probabilmente non per volontà del Presidente del Consiglio, immagino bene, la cosa si è avuto degli accenti un po' ridicoli, per così dire. Insomma, c'è stata questa canzone cantata dai bambini di una scuola di Siracusa, dedicata proprio a lui. Un pezzo del testo che viene riportato in foto dal Corriere della Sera, il titolo è Clap and Jump per Renzi. Facciamo un salto, battiamo le mani, ti salutiamo tutti insieme Presidente Renzi, muoviamo la testa, facciamo festa, a braccia aperte ti diciamo benvenuto al Raiti, che è il luogo, la scuola nella quale Renzi è stato e dalla quale in realtà ha parlato, come si diceva anche di altre cose, naturalmente, di quello che intende fare nel prossimo Consiglio dei Ministri. Prossimo Consiglio dei Ministri chiamato a varare il Jobs Act, e chiamato appunto a ragionare di cuneo fiscale e di sblocco appunto i fondi per la scuola, questi 2 miliardi, in realtà 2 miliardi e 200 milioni, dei quali ci parla Mauro Meazza. I due titoli più critici su tutta questa vicenda, e anzi i giornali che decidono di aprirci, sono Libero e La Padania. Libero titola I balilla di Renzi, c'è una sorta di vignetta iniziale, il disegno iniziale che c'è sempre prima pagina sul Libero, che rappresenta Renzi vestito da duce e tanti piccoli bambini vestiti da balilla con la faccia di Renzi. Nuove vette del culto della personalità, dice Libero, addirittura un lavaggio del cervello degno della Corea del Nord. Commento di Maurizio Belpietro in prima, il mincul pop permanente alla Fiorentina. Il più feroce, per chi si intende, si occupa un po' di rete, sta un po' su internet e sui social network, forse è quello della Padania. Il titolo è Il bimbo minchia. Allora, chi sono i bimbi minchia? Sono quelli ragazzi, gli adolescenti che su internet scrivono con le K al posto del CH, cioè scrivono che con la K invece che col CH, e si occupano sostanzialmente quasi solo dei loro idoli musicali, per esempio gli One Direction. Renzi prosegue la sua gita nelle scuole, scrive La Padania, dove viene acclamato con canzoncine da regime. Questo quanto riporta la Padania. Infine, vi dicevo, due storie dal sud. La prima era il racconto che ha fatto Mattia Feltri su Pompei. Molti dettagli, appunto, anche sui soldi, sulla questione dei soldi e dei finanziamenti, come ci diceva Mauro Meazza, li trovate sul Sole 24 Ore. L'altra storia, secondo me molto bella e anche decisamente significativa, ancora una volta, se vogliamo ancora cercare metafore di come funziona il paese, la troviamo sul Corriere della Sera, e la scrive firma che su queste cose si esercita spesso, soprattutto sulle questioni locali, sulle vicende locali, la firma Gian Antonio Stella, prendendo spunto da un pezzo del Corriere del Mezzogiorno. La storia arriva da Castel Volturno. Castel Volturno, che è un luogo dove ci racconta Stella, dice questo: si parla di rifiuti. I rifiuti sono un affare per tutti tranne per gli abitanti. In una provincia che, dopo essere stata avvelenata dai peggiori veleni portati dal nord, si parla appunto di Terra dei Fuochi, ha visto salire la raccolta differenziata al 40%, con comuni che arrivano come Sessa o Lunca al 70%, Castel Volturno arranca in coda al 9%. È la peggiore in assoluto dopo Casal di Principe, che è il luogo da quale trae origine il clan dei Casalesi. Buttare in discarica l'immondizia dei 24.000 residenti della cittadina è costato nel 2013 poco meno di 10 milioni di euro. Abbiamo solo 45 secondi ed è solamente per dirvi sostanzialmente che questa è la storia di un uomo, il proprietario di uno stabilimento balneare, che fa la differenziata, che fa il compostaggio, e nonostante la legge lo preveda gli viene fatto pagare la stessa tariffa di rifiuti, le stesse tasse che devono pagare tutti gli altri. Noterete che forse abbiamo messo qualcosa, anche perché non ci sono grandissimi dettagli rispetto a quello che avete sentito nel GR, e soprattutto, a differenza di Alessandro Milan, io milanista non sono, che è la possibile vendita del Milan. Se ne parla sui giornali, sono indiscrezioni che circolano, ma grandi dettagli in questo momento non ce ne sono. Giornale Radio, poi ci ritroviamo e parliamo di Europa.